Torniamo in onda con Sono Solo Nuvolette, questa è Radio Archimede, e io sono Fulvio Gatti, Fulvio De Cazzo su Twitter, e oggi ho fatto disperare Alessandro in regia, che gli stavo contando gli anni entro cui diventerà vecchio e rincoglionito come me, quindi non potrà più fare il giovane. Vabbè, sto dicendo scemate, il bello è che partire con una trasmissione che ha tutte queste pretese di serietà e poi delle stupidaggini così. Comunque Alessandro non vedo doppio, ci sono due Alessandri in regia oggi. E quindi invece qui con me come ospite c'è Gino Vercelli, disegnatore di Martin Mister, Nathan Never, Dipartimento 51. Perfetto, ciao a tutti. Un po' più vicino, Gino? Sì, ciao. Ti avvicino al microfono. Sì, ok, grazie. Che ho portato giù qui, come qualcuno avrà notato, c'è un po' di presenza astigiana ogni tanto. Abbiamo fatto il viaggio insieme, già Sergio Ponchione è già venuto da Asti, Patrizia Comino. C'è un po' di presenza astigiana qui a Solo Non Solo Nuvolette. E in effetti ad Asti ci sono un gruppo di disegnatori, della Bonelli ed altro, che si è ritrovato a nascere in questa provincia. Esatto. È una cosa divertente perché penso che siano i disegnatori, a prescindere, siano molto equamente distribuiti in Italia. Molti probabilmente in Piemonte e Lombardia, perché comunque la Sergio Bonelli Editore ha la sede a Milano. Sì, ormai ce ne sono comunque, direi, quasi tutte le parti del mondo, perché Sergio Bonelli ha acquisito anche collaborazioni con artisti anche in Argentina, certo. Francia, e Spagna, certo. Anche in America, quindi si è trovato collaboratori a cui piaceva lavorare. Comunque, la Sergio Bonelli Editore, come abbiamo avuto modo di parlare su queste frequenze, è un po' il fumetto italiano, perché è la scuderia di molti dei personaggi più celebri. Poi chiaramente c'è Diabolik con Astorina, ci sono tutti i personaggi umoristici, quindi Lupo Alberto eccetera, lo Sturtruppen, però da Tex a Dylan Dog, diciamo l'asse Tex Dylan Dog, passando per Martin Mister, passando per tante avventure, poi personaggi più moderni come Orfani eccetera, c'è una bella corazzata di fumetto e tanti professionisti che negli anni lavorano e hanno lavorato per i vari personaggi, e Gino è uno di questi. Tu eri entrato in Zona X, giusto? Primo lavoro è stato fatto per Zona X, okay. Nel numero 2 di Zona X ci ho preso, stavo andando a spanne potevo sbagliare. E da lì ho incominciato, lì ho conosciuto il grande sceneggiatore Alfredo Castelli. Caspita. Un mito per me, che ero cresciuto con i fumetti del Corriere dei Ragazzi, e averlo conosciuto di persona, aver lavorato su sue sceneggiature, è stato per me un onore e un piacere. Zona X tra l'altro era questa specie di testata spin-off, diremmo oggi, di Martin Mister, che era una specie di Ai confini della realtà, come la serie, la mitica Twilight Zone. All'inizio era introdotto da Martin Mister, poi era diventato pian piano si era affrancato da Martin Mister. Sì. Tu la prima storia era una delle serie, degli episodi sciolti o una delle serie? Una degli episodi sciolti, in cui Martin Mister presentava una storia ipotetica, okay, come Ai confini della realtà, okay, e poi dopo ho fatto invece episodi di serie specifiche. Esatto, perché si era poi sviluppata comunque alla fine la serie antologica, ha un suo fascino, ma anche la possibilità di trovare gli stessi personaggi in più occasioni è interessante. Poi di per sé nel contenitore di Zona X si era un po' sperimentato con vari personaggi, dalla Legione Stellare di Federico Memola al Robinson Art di Mignacco. Mignacco, sì, di Mignacco. Robinson Art era molto bello e un po' perduto, questo viaggiatore nel tempo che andava in giro per il tempo a rimediare agli errori. E la tua prima storia invece per le serie era stata? Era Magic Patrol, era sempre collegata alle avventure di Martin Mister, uno spin-off della serie, diciamo, Altrove. Esatto. Nella serie di Martin Mister c'è questa base segreta, Altrove, che secondo me è nato da uno scherzo di Alfredo Castelli. Alfredo Castelli è il creatore di Martin Mister, però è nato quasi da una gag, perché Altrove è un po' la didascalia all'inizio in tanti fumetti, in alto a sinistra c'è Altrove quando vuoi dire di qualcosa ambientato in un altro tempo, in un altro spazio, e invece Altrove poi pian piano è diventata il nome della base. Certo, tipico del modo di essere, anche della personalità di Alfredo Castelli, giocare sulle parole, sui doppi significati, eccetera, quindi lui è bravissimo. Esatto, e pian piano nella storia Martin Mister è un po' Indiana Jones in certe cose, poi si è evoluto anche il personaggio, perché in realtà è un professore universitario, è un personaggio televisivo. Ha un po' anticipato, in realtà, quando è nato Martin Mister a fumetti c'erano molti meno di questi programmi sui misteri di quanti ci siano adesso, quindi ha quasi anticipato certe mode il personaggio in sé. Sì, è stato un anticipatore di tutto questo mondo che poi in televisione si è ampliato, esatto, con i misteri. Lui è stato uno dei primi a interessarsi, a scrivere, esatto, in effetti anche il motivo per cui a me è piaciuto incominciare a disegnare per la Bonelli Martin Mister, perché essendo io un appassionato per primo dei misteri, uh-huh, e trovarmi a disegnare questo personaggio, okay, mi interessava al di là del fatto di essere, certo, un disegnatore. C'è stato un po' di soggezione ad arrivare a disegnare il personaggio Martin Mister? No, soggezione no, anche perché lavorare con Alfredo ti mette a tuo agio senza problemi. Mm. Un po' di problemi in qualità di disegnatore, adattarsi un po' magari allo stile che aveva impostato il disegnatore principale della testata, cioè Alessandrini. Quindi ogni disegnatore deve un po' adattarsi ai personaggi, certo, che va a disegnare. Questo è stato un po' più difficoltoso. E tra l'altro Giancarlo Alessandrini, che comunque un maestro del fumetto italiano, guarda molto oltre Alpe, guarda molto a fumetto francese, la linea chiara, e quindi probabilmente c'era... Sì, il modo con cui costruiva le figure, come ha rappresentato anche il viso di Martin Mister, col suo stile, bisognava, esatto, un po' noi disegnatori che abbiamo seguito le sue orme adattarsi, esatto, e imparare. Esatto. La linea chiara, per dire, sono semplicemente questi fumetti, e l'esempio è Tintin. Bisogna immaginare il Tintin del fumetto originale, non quello in 3D del film di animazione di Spielberg, però questo è un disegno molto semplice, molto linea chiara, nel senso che c'era pochissimo chiaroscuro. Ecco, visto che sei un disegnatore lo puoi dire meglio di me, sapresti definire la linea chiara rispetto al disegno magari americano? Sì, diciamo che ci sono vari stili di disegno, di disegnare i fumetti nelle varie zone in cui si producono. Quello francese viene chiamato linea chiara perché si può dire che la figura da una parte ha una precisione nel delineare i particolari eccetera superiore ad altri stili, però ha una semplicità di realizzazione, cioè c'è il contorno della figura piuttosto che l'aggiunta di neri di troppo scuro, perché si lascia anche molto spazio, essendo quasi tutti fumetti colorati, si lascia anche spazio alla colorazione, certo, quindi praticamente la figura viene contornata in maniera molto pulita, a differenza del fumetto americano in cui è piena di ombre eccetera, certo, e quello italiano che è molto realistico, quindi con le ombre, le righe, perché il fumetto italiano per adesso è nato e cresciuto in bianco e nero. Certo, certo, di questo ne parlavamo anche la settimana scorsa con Simone Di Meo, che è un giovanissimo inchiostratore, e l'inchiostrazione nel fumetto italiano pubblicato in bianco e nero è ciò che fa la differenza tra una buona riuscita anche su stampa e una riuscita poco credibile, poco leggibile. In effetti io sono, diciamo che per il mio lavoro ormai sono abituato da anni facendo disegnando in bianco e nero, sono ormai abituato a trasformare tutto quello che vedo in bianco e nero, cioè, okay, in ombre, però non con le sfumature, non con i colori, okay, quindi sono al mio occhio ormai abituato da anni a vedere tutto con una separazione dei colori, okay, ecco. Ma questo significa che sapresti già scegliere, nel senso, immaginando questo studio, tu sapresti già attribuire quale apparirebbe nero e quale apparirebbe bianco? Certo, saprei, ah, okay, trasformare tutto, decidere, anzi, okay, ho già deciso come, okay, come verrebbe in bianco e nero. Ok, sì. Ed è qualcosa che hai affinato, immagino, col tempo? Sì, ho affinato col tempo, un po' perché la scuola comunque italiana porta a fare un realismo con tante ombre, un po' perché gli stili, diciamo il bianco e nero, i miei maestri che sono stati disegnatori principalmente americani, posso citarne due, uno è Alex Raymond e l'altro è Alex Toth, erano tutti disegnatori che lavoravano molto con i contrasti di luce, quindi del bianco e nero, e mi ha sempre interessato queste soluzioni, quindi la separazione, del togliere le sfumature, mm, e il creare dei netti contrasti, il bianco e il nero. Sono ancora disegni questi che citi, comunque, di Raymond Toth, nella loro semplicità, nella loro, quasi sempre erano anche rappresentati come, quasi sempre come strisce, quindi molto piccoli, però hanno un loro fascino, una loro ricchezza. Certo, anche un'intensità, vorrei oserei dire, come impatto. Sì, perché anche loro, lavorando per strisce comunque che venivano stampate piccole, dovevano caricare per poter accentuare l'espressività, sì, e il personaggio, e non c'era il colore perché queste strisce venivano principalmente stampate per i giornali in bianco e nero, poi c'erano anche le pagine a colori domenicali, ma comunque dovevano lavorare molto sull'espressività dei personaggi, quindi caricando le emozioni delle ombre, dovevano proprio rendere al lettore un effetto, una sensazione molto subito chiara e evidente. Sì, certo. E a te distinto comunque prediligi uno stile più italiano o come dicevamo la linea chiara francese, o addirittura ti troveresti bene, e questo faccio la spia io, tu hai disegni anche delle bellissime matite di per sé, quando gli dai un po' di resa, probabilmente la matita che non sarà inchiostrata è disegnata diversamente dalla matita poi inchiostrata, perché chiaramente c'è un procedimento diverso, però c'è se dovessi scegliere potessi dire ok, d'ora in avanti disegno solo ed esclusivamente nella maniera che mi è più congeniale. Ma se dovessi disegnare solo nella maniera che mi è congeniale, è vero, disegnerei solo, lascerei il disegno a matita. Okay. Perché l'effetto di volume, di profondità di una matita su un foglio bianco è unica. Quando viene detto ripasso, quindi si ripassa questa matita con pennarelli, occhina, dipende dagli stili del disegnatore, c'è comunque una trasformazione, c'è una scelta di soluzioni che nella matita non sono ancora state ben definite. La matita è molto più viva, molto più profonda, anche se si fa una matita senza sfumature di grigio, però la matita è decisamente più bella, più fresca, più immediata. Ok. Tu non hai mai pensato di lavorare anche con un inchiostratore? Ti è già capitato, immagino. Mi è già capitato di lavorare ma forse con... Ma non spesso. Non spesso. Mi è capitato un lavoro che ho fatto recentemente per la Bonelli, una storia di Nathan Never che è uscita, mi sembra, un anno fa. Mi è capitato di lavorare con un'inchiostratrice, in questo caso Silvia Mandanici, molto molto brava, in cui ho avuto molta soddisfazione nel vedere le mie chine, le matite ripassate a china da lei. E avevamo fatto altre prove con altri inchiostratori, ma non è stata la stessa effetto che io volevo. Certo. Ho dovuto poi scegliere quale utilizzare come inchiostrazione. Per fortuna con Mandanici è andata molto molto bene. Ok, beh, qui c'è tutto un lavoro, chiaramente è un po' una regia, in questo caso tu con la tua esperienza hai bisogno di controllare, anche nel caso se ti affidi a qualcun altro per l'inchiostro, hai bisogno di avere un controllo su quello che sarà l'esito finale. Certo, l'importante è che io sia soddisfatto, perché il lavoro poi, a parte che compare sotto il mio nome, ma comunque devo anche essere in linea, in sintonia con chi lavora insieme a me, quindi se è in sintonia con me anche l'altra persona, certo, il lavoro risulterà senz'altro certo migliore. perfetto. E continuiamo a parlare un po' dei mestieri, della tecnica del fumetto dopo la prima canzone. Per te Gino, con cui condivido i gusti musicali, ho preparato una playlist. Non ti ho chiesto di far tu la playlist, anche se ti l'abbiamo più o meno decisa insieme, dicevamo il tale e tal altro. Niente le Zeppelin, perché le ho già passate una volta, poi cercavo più sul rock blues oggi. E allora sono andato a pescare un chitarrista irlandese, che purtroppo non è più con noi, che si chiama Gary Moore, e con un pezzo che faceva più o meno così, si intitola Walking By Myself. E lo so, quando metto queste canzoni mi rendo conto di essere un giovane vintage, però pazienza. A me piacciono, a Gino piacciono, quindi Gino Vercelli oggi qui a Sono Solo Nuvolette, gli Alessandri in regia, che sono troppo giovani per apprezzare queste cose, ma speriamo invecchieranno presto e capiranno cosa si stanno perdendo della vita, non è vero, vabbè. Non credo che uscirò vivo di qui, secondo me Alessandro oggi mi metterà delle cose, fa esplodere il sellino, dopo tutto il regista è colui che comanda, poi il nostro ninja della regia Alessandro, che è riuscito a far funzionare la regia in condizioni molto problematiche. Questo ragazzo, abbiamo grandi speranze, se guarderà una volta Guerre Stellari e se ascolterà anche un po' di rock blues. Vabbè, invece Gino Vercelli, disegnatore Martin Mister, Nathan Never, dicevamo che sei tornato al lavoro su Nathan Never e stai disegnando adesso una storia di Nathan Never, giusto? Sto disegnando una storia di Nathan Never che, diciamo, siamo a metà. Comunque, per esigenze di programmazione uscirà, credo, fra più di un anno, perché chiaramente disegniamo storie che vengono poi pubblicate a seconda della scaletta, diciamo, delle storie dei personaggi. D'altronde siamo tanti disegnatori che ci turniamo nel realizzare le storie, quindi noi prima di poter vedere un lavoro pubblicato magari può passare un anno e mezzo, due, certo, e rimaniamo con la curiosità di come lo vedremo stampato. Esatto, anzi magari passa anche un po' di tempo e poi ancora qualcosa ti sei dimenticato e scopri qualcosa di nuovo. Effettivamente quando poi si vedono stampati i propri lavori c'è sempre il rimorso, dici non posso ricominciare da capo, ridisegnarlo tutto, perché comunque ci sono mille cose che si è dimenticati o per motivi vari si vorrebbe aggiungere, cambiare. Sei così critico verso te stesso? Ah, io sì, in effetti se posso. Ah, ok. C'è una storia molto bella che avevo letto tua su un numero che credo fosse speciale di Martin Mister Generazioni, credo si intitolasse, che c'è una storia di fantascienza, proprio con Martin Mister, però di fantascienza. C'era un Martin Mister calvo che sembrava un po' il Capitano Picard. Sì, era una storia di un numero speciale di Martin Mister in cui veniva la mia, era diciamo il raccordo fra quattro episodi disegnati Era la cornice, da quattro, okay. Ecco, quindi il mio raccordo era ambientato nel futuro e faceva sempre parte di un mondo che Alfredo Castelli e gli altri sceneggiatori di Martin Mister avevano creato, comunque perché Martin Mister può per vari escamotage viaggiare nel futuro, negli universi quantici, e quindi ci sono vari mondi cui è venuto a contatto, e in questo caso questo mondo del futuro io avevo disegnato un Martin Mister calvo e con dei personaggi che ricorrevano nella serie normale, che serviva così da raccordo a quattro episodi diversi. Ma quella storia lì specifica come nacque, come cornice? Avevi avuto anche voce in capitolo sulla scelta della cornice, sul come reinventare in versione di fantascienza Martin Mister e compagni, no? No, io ho ricevuto la sceneggiatura dallo sceneggiatore, che in questo caso è il collaboratore di Alfredo Castelli, Carlo Recagno. Ok. E i personaggi che già esistevano, quindi io ho solo lavorato nel disegnare una cosa. Però era già stata fatta questa operazione di traslare un po' il mondo di Martin Mister in fantascienza. Certo. C'erano tante belle astronavi in quella storia. Ah sì, perché lo sceneggiatore Carlo Recagno è un patito di Star Trek. Ok, sì. E al contrario di me, che sono un patito di Star Wars. Anche qui sono le due correnti, anch'io ho sempre preferito Star Wars. Ecco, lui mi aveva fornito molta documentazione, come sovente succede, e addirittura abbiamo messo anche dei suoi amici facenti parte del club di Star Trek come figuranti nelle varie scene, perché si fanno anche questi giochi tra di noi. Mi pare ci giochi spesso anche Recagno nelle storie di Altrove. Dicevamo, giusto per contestualizzare, che la base di Altrove ha affiliato una testata che è Storie di Altrove, che è un divertissement in cui a volte personaggi storici vengono fatti inserire in queste vicende di storia alternativa in cui c'entra la base di Altrove, e a volte ci gioca, compaiono personaggi di Doctor Who ultimamente, quasi sempre Garibaldi. Sì. No, ma sullo sfondo i personaggi principali sono Garibaldi, hanno già fatto la storia con più di una con Sherlock Holmes, perché mi pare anche che Recagno Recagno è patito di Sherlock Holmes. Sì. E poi a volte sullo sfondo compaiono i personaggi di Doctor Who delle serie televisive. Sì, è un gioco che si fa comunque di far passare di sfondo i vari personaggi. Io addirittura in una storia, l'ultima forse storia che avevo disegnato per Magic Patrol, visto che era ambientata in un passato del personaggio, di uno dei personaggi della serie, e negli anni quindi 70 così, avevo fatto durante una festa, ho fatto passare i Led Zeppelin, ho fatto passare i gruppi che mi piacevano, si fa volentieri. C'è una... quindi è l'ultimo episodio della Magic Patrol? Ok, sì. Bisognerebbe cercare, quindi mi avevi messo sullo sfondo Led Zeppelin, avevi messo Robert Plant, testa di capelli biondi, ok. Bisognerebbe dare un'occhiata per queste. Bisogna sempre guardare lo sfondo delle vignette. Ok. Questo è uno dei margini su cui voi disegnatori potete un po' giocare, magari col beneplacito dell'editore, dello sceneggiatore. Certo, cioè, ci lavoriamo tranquillamente. Okay. C'è un controllo normale per ogni casa editrice, però su queste cose, come far passare l'amico in primo piano, non so, è successa una storia di Marty Mister ambientata a Torino e avevo messo un mio amico che mi aveva aiutato a fare le foto di Torino, le avevo messo che passava in varie vignette. Come cameo. Certo. La storia di Marty Mister ambientata a Torino, disegnata da te, qual è? Erano due episodi, era la prima, c'è stato un periodo in cui avevano deciso di fare venire Marty Mister a vivere in Italia. I misteri italiani. E quindi si era trasferito a Firenze e avevano trovato proprio la location giusta con tante Via dell'Anguillara. Okay. No, perché la cosa divertente di Marty Mister è che ha un indirizzo fisico a New York, Washington Muse. Infatti ogni tanto qualche italiano va a bussare alla porta e pare che l'abitante vero di questo appartamento abbia capito oramai che i buffi italiani che vanno a trovare e cercare Marty Mister. E quando ha voglia risponde sì, Marty Mister c'è oppure no. Così dice la leggenda. Ah, ok. Invece sì. Oppure li insegue con un randello, può anche darsi. Dipende, non so, io non ho mai provato. Ma... Esatto, bisognerebbe tentare. Invece aveva andato proprio una location a Firenze con tanto di immagine, con tanto di appartamento, con foto dell'appartamento avevano dato noi disegnatori, quindi il posto esisteva veramente. E poi Martin Mister viveva queste avventure basandosi sui misteri, diciamo, italiani, andando a pescare in quello che in Italia può essere successo di non assoluto come mistero. Certo. E io avevo incominciato, ho disegnato l'arrivo praticamente, il primo mistero che era ambientato a Torino, quindi c'entrava un po' il museo egizio, gli egizi, eccetera, eccetera. E in quanto astigiano avevi subito pescato. Non è stato difficile per esatto, me trovare la pagliuzza corta. Beh, pagliuzza corta, la possibilità di il piacere di disegnare a Torino. Certo, così ho avuto andato a fare le foto, abbiamo fatto documentazione. Castelli aveva costruito una storia misteriosa mettendo insieme vari passaggi anche a Torino di personaggi misteriosi che durante gli anni, soprattutto negli anni del 600, 700, erano passati, transitati per, e dando quest'aura di magicità di Torino che si dice mistero. C'è questa idea per cui Torino sia parte del triangolo, sia delle forze del bene che delle forze del male. Certo. Poi il punto della forza del male in Piazza Statuto è vicino all'obelisco, c'è questo obelisco in Piazza Statuto. Sì, e poi di contraltare c'è la chiesa della la Gran Madre è chiaramente il punto delle forze del bene. E quindi sì, e noi ci avevamo messo tutto, Castelli aveva messo tutto questo in questa storia di due parti. Beh sì, credo che io stesso da lettore avessi scoperto un po' questa nomea magica di Torino tra le pagine di Marty Mister, quindi non sapevo, questa è una scoperta, devo andarmela a cercare, non sapevo che quella storia l'avessi disegnata tu. Credo che fosse interessante comunque questa scelta, e per un fumetto italiano dell'epoca l'ambientazione italiana fosse stata abbastanza radicale, questa scelta di Marty Mister, abbastanza molto, particolare. Molto, come in effetti è inutile negare che Alfredo Castelli è stato un anticipatore di tante cose. Sì. Adesso non vorrei azzardare il codice da Vinci come scrittore, perché se stiamo a vedere in Martin Mister il buon Alfredo queste cose le aveva già scritte, messe anni prima del signor Dan Brown. Esatto, ma infatti chi masticava di queste cose già per Peter Colosimo, per Martin Mister eccetera, quando è arrivato Dan Brown dicevamo sì, ma roba vecchia. Certo. E quindi quando i misteri sono diventati mainstream, un po' come le cose nerd, che adesso diciamo Star Wars, i supereroi che sono diventati di massa, quando sono diventati di massa il Santo Graal, i Templari, noi dicevamo ma no, ma sono cose vecchie. E poi erano, cioè, Peter Colosimo o Alfredo Castelli ce le raccontavano in modo divertente, quasi sempre uscendo un po' dagli schemi. C'è una storia bellissima di Marty Mister, una delle prime di questo pan, di questa creatura con gli zoccoli, che poi in realtà, spoileriamo com'era il finale o no? Ma sì, lo diciamo. Alla fine questo pan, questa creatura con gli zoccoli, in realtà poi era un marziano, era l'ultimo dei marziani. Sì, che era ambientata in Spagna, se mi ricordo bene. Ed era disegnata da Claudio Villa, uno dei disegnatori più importanti della casa editrice, poi è passato a disegnare Tex. Esatto. Sì, lì Castelli anche lì si era sbizzarrito. Ma in queste cose qua, guarda che Martin Mister, tanti temi, tanti unione di puntini tra tematiche della storia nostra e misteri. Credo che l'abbia fatto Castelli per primo, eh? Sì, direi decisamente di sì. In effetti il piacere di disegnare, di arrivare a Martin Mister è stato anche quello, cioè di disegnare quello che a me interessava già principalmente come lettore, perché mi incuriosivano queste cose e Castelli comunque le ha scoperte, scritte anni prima che diventassero davvero di moda. Esatto, diciamo. Esatto, prima che fossero di moda. Ed è fuori moda anche il pezzo che stiamo per lanciare, però oggi siamo in vena rock blues. È un gruppaccio che aveva, non diciamo il nome, diciamo le barbe, grosse barbe, solo il bassista e il chitarrista, il batterista dietro, nonostante si chiami Beard di cognome, non ha la barba, questa sono cose che segnano, come diceva un comico di Zelig. ZZ Top, Tash. E parlavamo di come Alfredo Castelli ha anticipato molte mode, parlava dei misteri ben prima che arrivasse Dan Brown o altri programmi tipo Mistero. Gli ZZ Top che abbiamo sentito hanno anticipato gli hipster, giusto Gino? Certo, loro 30 anni prima. Esatto, due barbe importanti e adesso gli hipster hanno tutte queste barbe, ma se non ci fossero stati gli ZZ Top... Chissà. Esatto. E siamo in onda su Radio Archimede, queste sono solo nuvolette, io sono Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter. Andate a mettere un mi piace sulla pagina Sono solo nuvolette e sulla pagina Gino Vercelli Cosmic Art, che è anche un bel nome. Gino, sei arrivato su Facebook tra gli ultimi, giusto? Sì, diciamo che come mezzo l'ho usato per ultimo, però è un grande spazio che permette di far conoscere la propria arte e conoscere anche tanti colleghi artisti. Esatto. Che diversamente sarebbe impossibile. No, infatti è un ottimo strumento per mantenersi in contatto. Poi nel tuo caso posti delle bellissime illustrazioni come quella di Martin Mister e Java che ho rilanciato alla pagina Facebook. Martin Mister, certo. Java è il simbolo di Atlantide. È il simbolo di Atlantide, è quello immancabile perché fa parte proprio del suo mondo. Esatto. E tra l'altro è a quel lato, un'illustrazione? È un'illustrazione, sì, con delle tonalità fatte con le Ecolin, che è una specie di acquerello che a me piace molto usare perché hanno una pastosità che è molto simile a quello che voglio ottenere per i miei colori. Avevo notato che era qualcosa un po' fuori dallo standard. Sì. Bonelli era più una... Sì, un'illustrazione fatta al di fuori della commissione lavorativa. Ok. Quindi è una tecnica che ti piace utilizzare, dà un po' questo effetto un po' più... Ti dà forse più controllo delle sfumature? Che vantaggio ha? Sì, controlla molto le sfumature ed è anche molto brillante come resa dei colori. Mm-hmm. E permette di lavorare in maniera diversa da china o altri tipi di o tempere. Bisogna usarlo con attenzione, però l'effetto è molto molto interessante. È una tecnica che a me piace utilizzare quando riesco, cioè quindi queste sfumature, perché è vero che ho detto che penso sempre in bianco e nero, però il colore quando posso lo utilizzo. Sì. Diciamo per fare i fumetti no, perché io lavoro, arrivo fino al bianco e nero, poi nel caso anche di colori vengono fatti comunque da altri specialisti. Però per me personalmente le cose a colori mi interessano e quando posso le realizzo. Certo. Però ho visto che queste illustrazioni, c'è anche una Catwoman, sono tutte in bianco e nero comunque, mi sembra. C'è una Catwoman, ma c'è anche una vampirella a colori. Vampirella a colori. Sì, okay. Sì. Dipende un po' dal... Non accedo nella quantità di colori da usare, perché come base cerco di rifarmi un po' alle illustrazioni del secolo scorso. Okay. Quindi una base di nero, di grigio, e poi intervengo con pochi colori per non appesantire, però per dare anche questo effetto un po' da fumetto, da illustrazione inizio secolo, perché è quella certo. che mi interessa seguire. E credo che in quel caso, tra l'altro, il limite dei colori fosse proprio un limite di stampa, si cercava di avere pochi colori perché c'era, la riproduzione sì, meccanica sì, sì. portava tot. Sì, sì, i colori erano quelli base della stampa, il blu, il rosso, il giallo e il nero di fondo, sì. quindi per esigenze cromatiche. Di per sé i costumi dei supereroi sono in quei colori argenti perché dovevano essere... riprodotte a stampa, certo, in base alla resa alla resa della stampa. Chissà di che colore sarebbe stata la tuta di Superman se avessero avuto la palette di colori che abbiamo adesso. Ma magari non sarebbe stato quello azzurro. Ah, di sicuro. Tutti i primi costumi sono tutti in base alle quattro tonalità che si usano in stampa. Però devo dire che delle volte preferisco questa semplicità di colorazione, perché secondo me ottiene un effetto molto più evidente e immediato. Quando... Sì, credi anche tu che tante volte i paletti tecnici creano... Cioè, quando uno ha troppa possibilità, a volte poi è più difficile esprimersi quanto invece all'interno di determinati criteri. Sono convinto di questa cosa, okay. nel senso che sia nella nostra arte del fumetto, ma in qualsiasi altro tipo di arte, che può essere quella di rappresentare, posso parlare anche dei film. Certo. Secondo me, quando c'erano più paletti, c'era più difficoltà nel raccontare le cose, ma c'era molta più arguzia e creatività nel cercare di raccontarlo. Sì, sì. Credo è un po' il discorso di tutta la narrativa di genere. Nel senso, io ricordo che da ragazzino odiai lo Spider-Man di Sam Raimi. Perché rispetto alle storie di Spider-Man, dei fumetti, della serie animata, in cui c'era tutta un'inventiva nel risolvere le situazioni, lì cominciava da A, andava B, andava C, punto. L'avevo trovato molto sciatto. I primi film di supereroi al cinema, che impressione ne hai avuto questi, diciamo, degli anni 2000 da lettore di fumetti? Ma da una parte c'è la curiosità, perché li vedo e li seguo. Da lettore di fumetto, in tutta sincerità, preferisco il fumetto. Okay, okay. E non nego che possano essere molto più interessanti per un pubblico non abituato sì. anche ai fumetti, e posso capire anche la diversità nel vedere un film, cioè gli effetti che si ottengono in un film. Però diciamo che il lavoro che c'è dietro nel ricreare, scrivere o disegnare una storia a fumetti rimane unica, soprattutto nel raccontare le storie di supereroi, che secondo me i supereroi, per bene che si facciano al cinema, rimangono comunque un prodotto da carta stampata. Sono tutte una serie di dibattiti, di discussioni. Poi il bello di supereroi come Spider-Man, come Superman, è che tante volte ci si può mettere dentro tantissimo. E lo stesso Batman abbiamo visto in quante versioni è già stato reinventato, sia a fumetti che al cinema. E adesso ne vedremo un'altra a marzo. Vedremo il Batman col mascellone di Ben Affleck. Però è chiaro che poi, a maggior ragione, se uno ha letto il fumetto originario... Sì, soprattutto certi personaggi sono molto difficili. Cioè io sono un patito di Batman. Ok. E pur avendo apprezzato sia il Batman di Tim Burton che quello di Nolan, Nolan okay. Nulla tolgo a loro, hanno fatto un ottimo lavoro, mm-hmm. e però rimango dell'idea che Batman è un personaggio molto difficile da fare, sì. e secondo me non hanno ancora adesso vedremo quello con Ben Affleck. Sì. Fino adesso, secondo me, il Batman che io vedevo disegnato non l'ho ancora trovato nel film. Perché quali sfumature secondo te sono andate perse? Perché Batman ha avuto negli anni tutta una serie di sfumature, il Cavaliere Oscuro, pure il Detective. Questa se la sono completamente dimenticata, che Batman era il più bravo detective del mondo, e questo in realtà nei film di supereroi non c'è, perché non è più un film di supereroi. Ma quello che secondo me usciva fuori in tutti i fumetti, al di là dei vari scrittori che potevano trasformarlo più nel detective, più nel vendicatore, eccetera, certo. era che comunque questa figura, diciamo con o senza mantello, era comunque una figura imponente e importante nella storia. Lui c'era sempre, okay. cosa che secondo me mettendolo in realismo del filmico sì. si perde, cioè non traspare come nel fumetto, proprio perché il fumetto, essendo disegnato, gli davi anche la scusante che potevi fare qualsiasi cosa, anche disegnarlo alto 4 metri sì. dici, però è giustificato dal fatto che era un disegno, era un fumetto. Potevi usare mezzi espressivi del fumetto che al cinema non sarebbero così giustificati non narrativamente. Non sono giustificati, ecco. Quando al cinema, per giustificarli, bisogna per forza trovare delle altre soluzioni, ma perdono il loro, nel momento in cui li giustifichi, perdono la giustificazione, mettiamola così. E l'altro problema è anche dei costumi dei supereroi, che sono difficilissimi da rendere in tessuto, perché in realtà sono quasi cuciti sulla pelle o dipinti addosso nei fumetti. Certo, originali. Poi disegnati, anche lì li giustifichi, disegnato puoi giustificare qualsiasi cosa. Esatto. Lo vedi dal vero un supereroe con una tuta gialla e un paio di mutande sopra la tuta, esatto, e dici: questo c'ha una tuta gialla con un paio di mutande sopra la tuta. Esatto, e esatto, non è la stessa cosa che vederlo disegnato. Disegnato verrebbe giustificato. Esatto, comunque. Esatto. C'è tutta una serie di sospensione dell'incredulità che permette il fumetto. Poi di per sé erano anche una serie di codici. Questo è strano, però ne parlavamo anche con Bruno Sarda relativamente ai fumetti Disney. I fumetti di supereroi classici hanno una loro coerenza interna che è difficile anche da ricreare adesso, anche con dei fumetti moderni. Certo, no, è vero, in effetti i fumetti, diciamo, classici di supereroi sono comunque delle cose a sé stanti, che adesso che è cambiato il modo di raccontare, il modo, il linguaggio proprio di sceneggiatura, ha cambiato il disegno, è cambiato... Non sono più, come dire, quelli, è vero, magari parla un nostalgico, però è anche vero che certi eccessi di dialoghi troppo moderni, troppo così terra terra, forse quotidiani, non sono giustificati in un fumetto, soprattutto sì, di supereroi. In realtà non sto criticando, non sto dicendo che sono cose diverse, che un certo tipo di fumetto ha funzionato in quella stagione e poi adesso funzionerà qualcos'altro, nel senso non è un problema, però è difficile, e come è difficile rendere il personaggio di Superman alla fine, perché è legato a una certa epoca, a una certa mentalità in cui Superman poteva essere il difensore dei valori americani. Adesso vedi adesso il Superman con Christopher Reeve del primo degli anni 80, che dice: vado a esportare libertà e democrazia. Dopo, certo, l'era Bush abbiamo qualche problema a sentire dire quelle cose lì. Decisamente, in effetti, parlando di cinema, gli ultimi film di Superman non hanno avuto molto successo, nonché, anche se i registi erano tutti molto validi, sono tutti registi che, tra parentesi, io ammiro, perché seguendo anche il cinema che è legato al fumetto, ci sono dei registi che... Il Superman Returns era di Bryan Singer, il regista che ha portato gli X-Men al cinema, li ha resi quelli che sono, eppure... praticamente innocuo, come direbbe Douglas Adams. Assolutamente, non se lo ricorda nessuno, come esatto, si dice, esatto, perché è legato molto a un periodo storico, sia di quando è stato creato nel fumetto, e poi comunque il fumetto è una cosa che forse può vivere, può dire ai personaggi certe cose, ma in una finzione filmica è diverso. Credo anche che si veda in Watchmen, il film di Watchmen, tu l'hai visto? Sì. Ci sono dei dialoghi che sono in realtà esattamente quelli del fumetto, però nel film fanno schifo. Sì, in effetti Watchmen è stato anche lì un caso particolare, nel senso che nulla bisogna dire, il regista ha praticamente preso il fumetto e l'ha usato come storyboard, no? Esatto. Quindi le stesse inquadrature del fumetto lui le ha riprese e rifatte, esatto, quindi non si può dire che abbia trasformato come in altre occasioni. C'è un lavoro certosino che è meraviglioso, per gli fan del fumetto di per sé è meraviglioso. Però non è riuscito assolutamente, almeno per me, a scalfire quella, la sensazione che ho avuto leggendo il fumetto, purtroppo. Non è arrivato in quella maniera, esatto, cui era arrivato il fumetto. Eppure avendo fatto un lavoro immane di adattamento, senza travisare, trasformare quello che era il fumetto. Ma anzi, mi pare che abbia anche fatto il casting giusto, perché una delle cose su cui poteva accadere, il casting è giusto, tutto è giusto. Però non è Watchmen, è un bignami di Watchmen, come a volte dicono i bignami dei romanzi di Stephen King che ne fanno un film. È un po' un bignami, non è un bellissimo omaggio, però non è totalmente riuscito. Invece, quanto a riuscire, è un omaggio, è una cover, qualcosa del genere. Però un signore che sta benissimo, penso, è lì con la sua raucedine, penso fumi un tir di sigarette, con la voce lì, si chiama George Thorogood. E un pezzo che era, se Alessandro lo sai da queste parti, sì, scusa se sono un po' stronzo, lo so, ti accuso di essere distratto quando non lo sei, quindi devo fare penitenza, ma comunque è un pezzo che, parlando di cinema, questo pezzo qua in Big Fish di Tim Burton, arriva Steve Buscemi e il protagonista gli dice: cosa fa qui? Ah, il poeta, cosa fa qui? Faccio una rapina, e parte questo pezzo qua. Ok, George Thorogood si è allargato su questo pezzo, partiva addirittura l'organo Hammond, non sapevo, colpa mia che pensavo, questo era un pezzo dei Kenedit, tra l'altro, gruppo anni 60, bisognerebbe dire Kenedit, rock blues, così, ripreso da Thorogood. Non sapevo che l'avesse incisa solo in questa occasione qua, però in Big Fish effettivamente c'era la scena della rapina e partiva la chitarra slide. Con Gino ci siamo messi a parlare di cinema fuori onda, di cinema di supereroi, eccetera. Però una cosa interessante di cui che non abbiamo ancora toccato è il fatto che tu hai disegnato sia Marty Mister che Nathan Never, ma hai disegnato anche entrambi gli albi di incontro tra Marty Mister e Nathan Never. Sì, ho fatto anche questo, anzi il primo incontro con Nathan Never è stato quello dell'incontro tra Marty Mister e Nathan Never, i primi due albi unici, sì, che esatto, stato esatto. Prigioniero del futuro, qualcosa Prigioniero del genere. Futuro e secondo aveva qualcosa altrove, qualcosa altrove, non mi ricordo il titolo, aveva qualcosa a che fare con altrove, sì, comunque sì, sì, sì. C'era questo escamotage molto interessante con cui in realtà il cervello di Marty Mister, memorizzato da un computer biologico da Mr. Jinx, anche lì Castelli aveva anticipato parecchio certe idee alla Philip K. Dick, oggi persino abusate, e quindi Marty Mister veniva impiantato nel corpo di un robot nel futuro, e quindi Marty Mister esiste nell'universo di Nathan Never. Marty Mister esiste nell'universo di Nathan Never, ogni tanto ricompare negli albi, però non è stato più sfruttato a livello di storia lunga. Sì. È comparso qualche volta, però per adesso diciamo è ritirato a studiare, okay, in un eremo, e pensiamo che magari in futuro venga di nuovo, okay, ripreso. Ok, e ti ricordi quando ti proposero questo team up, se ti incuriosiva? Fossi sorpreso anche tu da questa idea con cui Marty Mister viaggiava nel futuro senza in realtà viaggiare effettivamente nel futuro? Sì, la cosa era molto molto interessante, sono stato ben contento di essere stato scelto per disegnare questo primo albo, che poi appunto è continuato nel secondo. E l'escamotage di Alfredo, che è sempre geniale nelle sue trovate, era molto interessante, anche perché era talmente semplice, faceva parte, non era inventato apposta per l'occasione, ma faceva parte, c'era già nella continuità, esatto, del personaggio, delle storie di Marty Mister, quindi esatto, esisteva già un era computer, lì belle pronto. Ecco, era belle pronto, non è che si è inventato qualcosa come spesso succede, cosa troviamo, studiamo adesso per trovare la maniera di far incontrare i due, no, era già tutto scritto, quindi sì, lui ha dovuto solo avere la pensata e dire lo mettiamo in pratica, esatto, e quindi l'escamotage era stupendo. Esatto, esatto. E c'è queste due tavole molto potenti che ricordo tu, e questo sapevo che era tuo, infatti ero andato a riguardarmene queste tavole quando il Marty Mister robotico scopre di non essere umano ma di essere un robot, che avevi dato una bella impatto emotivo a questa disperazione del personaggio. Eh sì, perché è stato per tutta la storia, per buona parte della storia, nessuno doveva sapere, e lo stesso Marty Mister non sapeva di essere un robot. Quindi la cosa interessante era anche quella, dici, quando scopre di essere un robot cosa succede? Va fuori di testa, no? Come succede a una persona normale, però esatto, invece era un robot, ed è per tutta la storia viene nascosta questa cosa e viene tirata fuori al momento clou verso il finale dell'episodio, e quindi si è lavorato anche molto in questo caso, mi ricordo, sull'espressività, sullo studio dei movimenti e dell'espressività del volto, dello stupore. In effetti si è studiato tantissimo con, e la storia era stata scritta, ideata da Alfredo Castelli, ma era poi stata scritta per alcune parti da Antonio Serra, perché è stata fatta fra i due, diciamo, sceneggiatori principali dei due personaggi. Certo. E quindi quando si è arrivato a quel punto lì si è lavorato molto, soprattutto sull'espressività dello stupore di Marty Mister nello scoprire di non essere umano e tutto di conseguenza. È stato fatto un lavoro molto molto interessante. Ti ricordi se avevi avuto dei commenti anche dagli stessi autori, commenti favorevoli oppure dai lettori per quella storia? Mi ricordo che la storia era piaciuta molto anche dagli stessi autori, cioè da Antonio che da Alfredo. Antonio era stato molto soddisfatto del lavoro che avevo fatto. E poi sei tornato anche sul luogo del delitto, per così dire, tornando a inserire, a disegnare la seconda storia. E questa era sempre di Serra? No, la seconda storia era stata sceneggiata, cioè c'è stato sempre l'input di Alfredo e Antonio Serra, però era stata sceneggiata da Vincenzo Beretta, che a suo tempo era uno sceneggiatore di soprattutto di Martin Mister, poi ha abbandonato un po' la professione di sceneggiatore per un certo tempo, è ritornato, mi sembra, quest'anno a scrivere di nuovo, adesso mi sembra Martin Mister. Comunque è uno sceneggiatore molto molto bravo, purtroppo un po' lento nello scrivere, ma è normale quando si pensa bene che cosa scrivere. E anche lì... questo in realtà è drammatico per i disegnatori, perché in realtà poi uno, quando tra le mani l'albo, non se ne rende conto. Invece probabilmente per il disegnatore la distanza tra una tavola e l'altra consegnata diventa un po' problematico. Sì, quando riceve lo sceneggiatore, il disegnatore riceve le tavole in maniera molto rallentata, purtroppo perde un po' il filo di quello che sta disegnando, purtroppo succede. Comunque, se lo sceneggiatore è valido, si riesce sempre comunque a trovare la maniera per fare un buon lavoro. E questa storia aveva una specie di ecatombe, in realtà, poi succedeva... Sì, in effetti la cosa divertente dietro le quinte era il fatto che, conoscendo un po' la mania del sceneggiatore di raccontare scene molto catastrofiche, si erano raccomandati con lo sceneggiatore non far morire troppe persone. E lui ha fatto morire tutti gli abitanti di altrove in una catastrofe. Così? Vabbè, poi però si parlava di un futuro, quindi non ma è sì, detto non avrebbe che, avuto ecco, grossa influenza ecco, sulla continuity. No, assolutamente. E comunque ha fatto un lavoro molto, molto importante, perché anche lì ha usato citazioni, anche lui è un patito di Guerre Stellari, ha fatto vestire uno dei personaggi con il costume di Obi-Wan, Luke, che no, di Luke, Luke di c'erano Luke queste Skywalker. Tre ragazze, che poi una era vestita come Luke nel... sì, una era vestita come Luke e un'altra come una maga, perché comunque erano tre personaggi che lui aveva inserito e che andavano pari passo con la storia di Martin Mister. Mi ricordo questo personaggio femminile vestito come Luke in Una Nuova Speranza, nel film originale del 77. Queste sono citazione. Ok, l'avevo colta, questa ti dico che da lettore l'avevo colta. Ce n'erano altre in quell'episodio, addirittura c'era una vignetta in cui si riecheggiava alla copertina di un film film sulla Prima Guerra Mondiale di uno dei miei registi preferiti, che è quello di Arancia Meccanica. Ah, ok, di Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, nel film Orizzonti di Gloria. Orizzonti di Gloria, ok. Avevamo rifatto un po' la copertina. Avevamo messo anche Locandina, tante citazioni di altre cose. Okay. E sarebbe stato bello alla fine chiedere ai lettori quante ne hanno colte. Ma non siamo riusciti a farlo quello. Ma è diventato poi anche un po'... anche in quello siete stati forse un po' anticipatori, perché adesso tanto fumetto italiano e non solo è costruito di patchwork, e poi lo stesso patchwork di citazioni, e a maggior ragione poi lì Tarantino insegna che ha costruito Kill Bill a partire dal costume di Bruce Lee, il tal elemento, il tal personaggio, solo Tarantino riesce a creare un tutt'uno coerente a partire da una serie di citazioni. Poi tante volte sono storie originali che però hanno un elemento qua, un elemento là. Forse si è persino un po' esaurita, per fortuna direi, perché poi il gioco citazionistico a un certo punto, se prevale sulla storia, annoia un po'. Però queste gag... Sì, queste gag, si era anche un po' anticipato un certo modo di scrivere, se si può dire, nel secondo episodio dell'incontro, un certo modo di scrivere i fumetti che attualmente, insomma, ne leggo. Cioè il fatto di far parlare il personaggio quasi rendendosi conto di essere un personaggio a fumetti. Ok, metanarrazione. Metanarrazione. Okay. Tanto è vero che la storia era stata scritta esagerando un po' con i caratteri dei personaggi, soprattutto Nathan Never Martin Mister, cioè Vincenzo Beretta l'aveva scritta esagerando un po' con i caratteri dei personaggi, un po' sopra le righe, no? E per giustificare questa cosa, Antonio Serra aveva trovato anche lì un escamotage per dire guardate che quello che è stato raccontato in questa maniera era un fumetto, no? Nel senso, era un racconto nel racconto, come se fosse un personaggio della storia, in questo caso Legs, che racconta a modo suo una storia di Martin Mystère e Nathan Never. E quindi il personaggio di Lex Weaver, di per sé raccontato come sopra le righe, poteva essere il narratore inattendibile, ecco, di questa storia. Cioè, lei lo quindi racconta alla sua maniera. Lo arricchiva di elementi. Ok, questo è interessante. Interessante. L'ora è passata, temevamo sempre, Gino, temiamo sempre che l'ora sia troppo lunga, invece passa in un attimo. Abbiamo scelto un ultimo pezzo, questa volta italiano, questa idea di mettere sempre un pezzo italiano in coda. Gino, sei astigiano, in realtà originario di un paese della provincia, però astigiano di adozione e di vita, quindi abbiamo scelto un cantautore astigiano, forse il cantautore astigiano. Queste sono solo novelette, cliccate mi piace sulla pagina di Facebook, cliccate mi piace su Gino Vercelli Cosmic Art. Ti faccio annunciare proprio come un DJ e chiudere, annunciare il pezzo di chiusura, e io do appuntamento a fra 2 settimane. E allora grazie a tutti, Boogie di Paolo Conte.